raccontare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Eh sì, ci siamo entrati in diretta con una bellissima tripletta di ragazze qui insieme a noi, ma non solo, perché oltre alla tripletta di ragazze abbiamo anche una festeggiata e le sue amiche. Vedi, già ridono al pensiero della festeggiata, perché insomma questo è il sentimento che li porta. E abbiamo prima sentito gli amici, se non sbaglio, che sono stati qui. Adesso finalmente abbiamo anche alcune protagoniste di questa serata. Vai, cominciamo con le presentazioni. Chi vuole partire? Lei. Sono io la festeggiata Francesca. Che è un nome complicato, sono io la festeggiata Francesca. Cioè, nel senso, è lungo. E non ha più la voce. Eh sì, ha perso la voce. Sono io la festeggiata Francesca, molto bene. Insomma, non vorrei chiedere le origini del nome, perché insomma ho paura, però. Medievale. Sono, sì, esatto, dove contava avere un nome che toccasse, cioè almeno avere tutte le lettere dell'alfabeto nel nome. Esatto. Per se no non era importante. Poi. Mariuccia, pericolosissima Mariuccia, non vi dico il motivo, però insomma temetela. Michela, molto bene. Da dove venite, ragazze? Monte Isola. Oh, Monte Isola, quanto mi piace quando fate lo zecchino d'oro, che rispondete in coro, che vincete anche tanti premi, la Lotteria Italia e tante belle cose. Allora, Monte Isola, dicevamo, abbiamo avuto i vostri amici prima e abbiamo anche una delle quattro festeggiate, che è quella col nome corto, cioè io sono, com'è che ti chiamavi? Io sono la festeggiata Francesca, molto bene. Mi piace che lei abbia imparato il suo nome dopo tutti questi anni di vita. Esatto. Quanto ci hai messo? 24 anni, bene, insomma, sono conquiste che si raggiungono. Io sono la festeggiata Francesca, non sa ancora leggere, però è riuscita a imparare il suo nome. Però riesce con orgoglio. Con orgoglio. E insomma, punta a leggere intorno ai 48-49 anni. Questa è la sua speranza, il suo progetto di vita. Sono poche cose nella vita che bisogna fare. Ogni 25 anni devi imparare una cosa. Lei ci ha messo 24 a imparare il suo nome, quindi addirittura un anno prima del previsto. Questo è di un'intelligenza superiore. E quindi altri 25 anni per imparare poi a leggere. Molto bene. Bene. Allora, come è andato il tuo compleanno? Allora, siamo state a Sharm el Sheikh al mio compleanno. Ma siamo a Lonato. Ah, ok, che ne so, quando è stato il tuo compleanno? 9 novembre. Ah, 9 novembre, ci molto bene. Persa Sharm el Sheikh. Infatti io no, c'era un po' di confusione tra Sharm el Sheikh. Domenica 24 novembre. Sì. Sabato 9 novembre era il mio compleanno. Perfetto. Oh, pensa un po', come mai questa scelta? Cioè, già programmata o è stata un'idea dell'ultimo minuto? No, era programmata, la meta doveva essere un'altra, ma per fattore clima, ore di volo e... Beh, già anche abbastanza, nel senso, esatto. Avete scelto Sharm el Sheikh, quante eravate? Tre. Ah, voi tre? Sì. Penso, è la prima volta che prendete un aereo o era già capito? No. Ah, eravate già andate. E come mai la scelta di Sharm el Sheikh? Proprio per condizioni di meteo e di periodo? Sì, dite anche la tempistica. Sì, una settimana. Ok. Una settimana. E cosa avete fatto di bello là? Mare, escursioni. Ambulanza. Cioè un'escursione sull'ambulanza? È compresa no, con... Ah, okay, scusa, ho visitato l'ambulanza di Sharm el Sheikh. Interessante. Eh sì. Cos'ha di diverso rispetto alle nostre? Ci sono le tende invece che le... Non ho mai visto una italiana. Ah, non hai visto una italiana? No. Beh, dovresti provare a questo punto. Domani fai una chiamata, esatto. Fai una chiamata al 118, domani metà mattina, però esatto. Così non disturbi. Guardate, io sono stata in un'ambulanza Sharm el Sheikh, bellissima. Però volevo provare anche un'italiana. No. Quando siete aperti per le visite e loro ti fanno tutto l'elenco degli orari. Okay. Capito? Perché insomma c'è così. Eh sì, perché avranno anche i loro impegni. Esatto, avranno i loro impegni. Certo, certo. Sai perché lei frequenta? Eh sì. Ah, frequentatrice. Volontaria. Ah no, volontaria, che bello. Io sono frequentatrice. No, lo so, magari frequentatrice, è il termine esatto. Esatto, ma nel tempo libero c'è chi va in palestra e c'è chi visita ambulanze. Cioè, esatto. Nel senso, no, ognuno ha la vita che vuole, è liberissima la vita che vuole. Cioè, lei sappiamo cosa fa nella sua cameretta, quindi ognuno nel tempo libero. Cos'è che fa? No, non lo svegliamo mai. Non lo svegliamo mai, se no cominciano a suonare il campanello di casa e vogliono entrare tutti nella cameretta della nostra amica. E quindi Sharm el Sheikh è la prima volta che organizzate un viaggio per il tuo compleanno? È già successo in passato? Allora, mi è capitato di essere via per il mio compleanno, è la prima volta che eravamo in Italia. Ah, ok. Quindi è una tradizione che vorrete magari mantenere o è andata sì, via? Speriamo. Portarmi, non lo so. potrebbe è un po' difficile. Dici? È un po' di come mai è difficile? Beh, intanto nei 4 minuti e 58 l'intervista ancora non ha tolto le braccia, cioè non ha sconserto le braccia. È ancora lì da 4 minuti e 58 con le braccia conserve. Quindi ha molto freddo, si stava scaldando le ascelle. Io proprio. Ok. No, non lo conosce? Come mai è molto difficile? Diteci un po', cameretta e ambulanza. Wow. Cameretta e ambulanza. È un po' rompiscatole, diciamo. Dai. Sì? C'ha 24 anni ancora? Non menatevi. Ma stavano litigando tantissimo. No, però è tenera, dai, molto carina. È tenera. Simpatica. Carina e simpatica. Sì. Che è la simpatica cosa. Simpatica e coccolosa. Carina, simpatica e coccolosa, che sono i tre aggettivi che le persone usano quando non sanno cosa dire di bello di una persona, no? Funziona così di solito, no? Funziona così. Sì, sì. Sì. No, loro mi hanno odiato perché io ho sempre caldo, quindi la giornata per me. Io sempre freddo. 18. Ah, sempre acceso. Beh, insomma, diciamo che Sharm el Sheikh è giustificabile, non è che sia proprio la Groenlandia, no? Loro no. La sera 27 gradi, golfino. Sì. Golfino a Sharm el Sheikh, cioè non vi hanno denunciate. No, ma leggero. Ah, golfino leggero. Golfino leggero. Da 2 anni si vivono una volta su. Certo, quindi valigia da 38 kg in stiva. Valigia di mesi. Comprare una in più. Perché non ci stava più tutta la roba. Incredibile. Comprare una valigia in più solo per il souvenir. Bellissimo. Sulla spiaggia. Che c'è, infatti? Che facevo questi souvenir con la sabbia, bellissimi. E niente, ci ha fatto. E come avete fatto a trasportare un souvenir di sabbia in una valigia? Cioè non si è sfaldato tutto? No. Ma guarda un po'. No, i nostri no. Alcuni ha tenuto? Però pensate. Altri tutti. Pensate, alcuni hanno tenuto. Bene, ci fa piacere. Tra l'altro volevo dirvi che voi quando è che siete tornate? Il 10 novembre. Ecco, 10 novembre. L'11 novembre una famosissima compagnia aerea ha stappato dei Dom Perignon perché per i vostri extra di bagaglio che hanno pagato hanno fatto proprio il bilancio anche del 2020. Cioè, perché per tutti gli extra di esatto, i bagagli, quindi vi ringraziano molto, hanno detto di trasferirvi questa informazione. E tu hai espresso qualche desiderio per il tuo compleanno? No, hai smesso di desiderare? No, però non è che. Perché sai che con l'età più che più l'età avanza, scambiano i desideri. Un soldo, no, una famiglia. Una indipendenza ce l'ho, un lavoro ce l'ho. E che ti manca? Felice, è più simpatica. È più simpatica perché già. Sì, più tranquilla. Più felice e più simpatica perché già. Cambio risposta. Perché se già loro dicono che non ti sopportano. Cioè riuscire a farmi scivolare le cose addosso. Che è una buona conquista, che è una buona conquista, no? Sì, perché io sono molto permalosa. Sì, sei istintiva. Tutta una battaglia, sei molto istintiva, sì, emozionale, impulsiva. In un passato un personaggio, un barbaro che andava di qua a spaccare. Un barbaro, secondo me è tipo Xena. Cioè è un amazzone. È un po' Xena. Che andavi lì a tagliare gole alla gente. E poi non solo tagliavi gole, ridevi anche. Quella sono io. Vedi, anche è per quello che poi appunto fa la volontaria in ambulanza. Perché ha fatto uscire così tanto sangue nella sua vita passata che adesso per par condicio lo va a curare, lo va a aiutare la gente in difficoltà. Allora, cameretta e ambulanza, volete dire qualcosa voi? No. Ambulanza io non. Ma tu sei cameretta, Lemo. Se avete del tempo libero, dedicatelo al volontariato. Bello, questo è un bel messaggio. Questo è un bellissimo messaggio. Aiutare il prossimo è un modo per voler bene a se stessi e alla comunità. Più i paesi sono piccoli, più si ama. Sono pienamente d'accordo e allora approfitto di questo assist per chiederti come mai tra i 22.000 servizi di volontariato possibili hai scelto l'ambulanza? Perché a Monte Isola l'ambulanza è un servizio che è un privilegio, ma soprattutto cioè, è proprio un servizio importantissimo. Sì. Se non fosse per i volontari di Monte Isola non esisterebbe l'ambulanza. Ok. Nel senso che essendo noi su un'isola è possibile pensare che ci vengano a prendere. Certo. O le Porsche, le Lamborghini. No, cioè alla fine le Lamborghini. Più che altro quando vai a soccorrere uno in un paese di 1700 abitanti, gente che conosci, gente che magari è venuta a fare una passeggiata, gente che purtroppo ha avuto una giornata storta, gli certo. Un sorriso e ti puoi andare a giornata. Poi ci arrivi con l'ambulanza, con la Ferrari rossa, ambulanza rossa, Ferrari. Brava Franz, brava Franz, brava auguri Franz. Un bel discorso, auguri. Auguri, cioè auguri, adesso cos'è? Sì, beh, esatto. Ormai è 16 giorni questa, fagli auguri. Finiamo la prima parte. Prende anche la Ferragna, ma esatto, cioè il compleanno neanche la regina Elisabetta ha compiuto gli anni così tanto. Allora, va bene, volete aggiungere qualcosa voi? No. Ma no. Grazie. Ma no, a chi? A te. Ah, ok, cioè, grazie a te, guarda fuori. Infatti era un po', era un po' difficilmente interpretabile. Bene, grazie a voi allora ragazze, è stato veramente un piacere avervi qui. Ah, scusa, eh no, però insomma, pensavo che funzionasse così, che di rimbalzo e grazie prendeva il vetro e arrivava a voi. No, no, a te. Bene, bene, quello che ti chiami, che ti chiami? Che mi chiamo non lo so. Ok, io non sono festeggiato. Quindi io non sono festeggiato perché festeggia lei. Grazie. Okay. Anche grazie, sì, mi piace grazie come nome, un po' esotico, un po'. Esatto. Sì, quindi io non sono festeggiato perché festeggia lei, grazie. Grazie, perfetto. Bene, bene, bene, questo piacere comunque, piacere. Benissimo, allora facciamo ancora tanti auguri alla nostra festeggiata. Auguri! E anche agli altri tre, perché ce ne sono altri tre. Sì, altri. Che sono persi. Sì, ma la... Da quale parte gli stanno bene? Erano lì fuori che stavano facendo un po' di cose. E va bene, allora penso che loro vi stiano. Sì, penso di sì. Tuo fratello è moroso che stanno ascoltando. C'è un modo fantastico per capire se stanno veramente ascoltando, ed è, dopo che lo dico, contare fino a tre. Se state sentendo, alzate entrambi la mano sinistra. Uno, due, tre. No. Vedrai, vedrai che arrivano. No, c'è troppo casino probabilmente. Eccolo, vedi, vedi che è arrivato. Vedi, vedi che è arrivato. Confermato che stavano ascoltando. Tra l'altro, no, l'applauso non era perché stavano ascoltando. Eccola, eccola che è arrivata. È un po' più di tre. Dicevo, l'applauso non era perché stavano ascoltando, ma perché sanno qual è la sinistra. Sì, bravi. Ma loro quanti anni hanno? Il mio amoroso ha fatto gli anni, com'è? È uno dei quattro. Ah, 20, cos'è, 27, no? 27, quindi c'è speranza anche per la nostra Francesca. Tra tre anni può essere che capisca qual è la mano destra e qual è la mano sinistra. È un duro lavoro, ma insomma si applica ed è importante. Allora, grazie mille ragazze, grazie a tutto il gruppo di Montisola per essere stato qui con noi. E a presto, ciao! Ciao.